La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Vivevo con la mia famiglia a New York. Fai bravo con la mamma. Fino al giorno in cui venni ingannato. A Solomon. Rapito e venduto come schiavo. Pochi giorni fa ero con la mia famiglia a casa mia. E ora tutto è perduto. Se vuoi sopravvivere, lavora e parla meno che puoi. Io non voglio sopravvivere. Io voglio vivere. E comincia così la nostra puntata della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, ben ritrovati al nostro appuntamento con il cinema del fine settimana, i nuovi film in sala, settimana ricchissima. Abbiamo voluto omaggiare subito il film sicuramente più importante anche in prospettiva degli Oscar, che ormai sono imminenti. Ricordo il 2 marzo l'assegnazione delle statuette, 12 anni schiavo è la clip che avete sentito, 9 nomination per i prossimi Oscar, quindi uno dei film che potrebbero farla da padrone in questa edizione. Cominciamo da qui, cominciamo dal grande cinema americano che ritrova il tema della schiavitù come ha fatto altre volte storicamente nel passato. Pensiamo a film come Il colore viola, come Amistad, tanto per citarne anche alcuni piuttosto recenti, come fece con un grande sceneggiato come Radici. E allora è un momento in cui l'America trova la sua storia, trova il suo impegno, e lo fa questa volta raccontando una storia originale, quasi a sottolineare che ancora una volta si possono raccontare storie relativamente nuove per il grande pubblico internazionale su quella incredibile piaga che fu la schiavitù, quella in questo caso di un uomo che era libero nel suo stato, Washington, aveva famiglia, usciva liberamente, era un uomo libero perché in quegli stati della costa orientale le leggi lo permettevano già, avevano abolito la schiavitù, ma non era così in altri punti, in altri stati degli Stati Uniti. Quest'uomo viene rapito e portato in catene, in schiavitù, venduto e ridiventa schiavo per appunto i 12 anni in cui corre la parabola del film. Protagonista è un attore che si sta affermando sempre di più nel cinema americano, Chiwetel Ejiofor, spero di averlo pronunciato bene, ma nel film troviamo anche gente come Michael Fassbender, Brad Pitt in un ruolo marginale però molto interessante, Benedict Cumberbatch che sta diventando anche lui uno degli astri nascenti, insomma Paul Giamatti, è un cast molto molto pieno. Io mi metto subito in collegamento con Boris Sollazzo, che è qui con noi. Boris, dicevo, un film che sposa il meglio delle radici dell'impegno civile americano con uno dei temi che al cinema hanno sempre portato a casa la pagnotta, perché comunque raccontare una piaga così grande mette sempre lo spettatore di fronte a un qualcosa di talmente grande che merita di essere capito, e questa volta con un taglio anche originale. Guarda, io per una volta sono in disaccordo con te, nel senso che io invece ho trovato che in qualche modo la struttura visiva non fosse troppo lontana dallo stereotipo che veniva raccontato dello schiavismo. Di certo però la storia è nuova e Steve McQueen ha dei momenti straordinari di regia. C'è un momento di impiccagione del protagonista o le frustate, le punizioni che chiaramente in quei 2-3 minuti di insopportabile realismo si trova un film straordinario. Quello che mi sembra è che però soprattutto nella seconda parte si cerchi una convenzionalità narrativa e visiva che non è propria di McQueen. Lo stesso Fassbender mi sembra spingersi in questo momento verso un po' una parodia di se stesso, un eccesso di stile da parte sua, quindi interessantissimo, storia che bisogna assolutamente conoscere, anche perché parliamo del vero superstite, è uno dei pochi a poterlo raccontare, questo dei rapimenti di liberi che diventano schiavi, però non mi ha convinto del tutto, ecco, ho trovato che non ci fosse stato il salto di qualità finale. E questo era 12 anni schiavo. Ovviamente io per originale, taglio originale, mi riferivo soprattutto proprio alla storia, alla vicenda, perché chiaramente oggi fare un altro film sulla schiavitù, sulla deportazione, su tutto questo enorme dramma, certo sì, avrebbe trovato ormai gli occhi degli spettatori totalmente pieni e consapevoli di tutto, anche se ogni tanto le cose vanno rispolverate, perché ricordiamoci che ci sono anche le giovani generazioni che magari Amistad, Il colore viola, non l'hanno visto. Ma l'originalità sta per questo fatto, in come si potesse anche per un certo periodo, che ricorda molto da vicino una sorta di 8 settembre americano, come si potesse ripiombare dalla parte sbagliata della barricata e ritornare schiavi. Questa è stata una cosa davvero, per noi europei, per chi non ha studiato il fenomeno magari fino in fondo, è una cosa che è abbastanza una scoperta e rende il film comunque secondo me molto interessante. Giochiamo adesso, giochiamo con la prima traccia del nostro gioco di oggi. Come sempre vi ricordo, due clip molto molto brevi di un film che dovete indovinare. Dovete scriverci subito che film è, con il vostro indirizzo, al nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpura @radio24.it. È un anno che Lorenzo non parla con nessuno. Lorenzo, perché non vi fermate qui? No, non posso accettare. Allora, la rosa purpura @radio24.it è già molto molto molto facile da questa prima clip. Ne avremo comunque un'altra più tardi per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Cambiamo film in sala. Un'altra novità arriva da Lone Survivor. Qui è ancora la storia, quella con la S maiuscola, anche se molto più recente, a essere raccontata da un altro film americano. Parliamo di Afghanistan, parliamo quindi di guerre che ci stanno ancora appiccicate addosso. Parliamo però di, anche in questo caso, di una vicenda vera. Sentiamo la clip. Qui avremo 15 uomini dell'unità e una dozzina di Marines operativi tutta la notte. Appena sentiamo Schlitz Malt Liquor, torniamo indietro, a Bagram, per la fase 2. Ci muoveremo in modo tale da riportare i Chinox indietro, qui. La presentazione di domani sera del nuovo arrivato la spostiamo alle 14 di oggi, così tutti possono partecipare e fare bisbox. Mi conviene mettercela tutta, ragazzo. È una missione un po' complicata. E si sarebbe rivelata una missione molto complicata. Questa, ancora una volta, dicevamo, una storia vera, poi trattata da dal New York Times, Lone Survivor, la storia di quattro Navy SEAL in missione per neutralizzare una cellula di Al-Qaeda, che però cadono in un'imboscata, e da lì in poi quattro contro tutti dovranno provare a cavarsela non senza perdite. Dirige Peter Berg, nel cast Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emil Hirsch ed Eric Bana, insieme al grande, secondo me, Ben Foster. Boris, anche qui un altro taglio su una storia già ampiamente raccontata, una sorta di uno contro tutti bellico. Sì, assolutamente sì, film però che secondo me perde completamente il senso, non tanto estetico, che forse azzecca, ma etico, a cui vuole arrivare. Siamo in Afghanistan nel 2005, Peter Berg vorrebbe raccontare questo uno contro tutti, mettendo insieme tutto ciò che ha imparato in anni e anni di cinema, soprattutto da Platoon, addirittura al Capo di Pontecorvo. Ci sono chiare citazioni di tutto questo. Il problema però è che con una storia così vicina non si può prescindere da ciò che rappresentano i protagonisti, e la grandezza di Coppola in Apocalypse Now, che pure viene citato, era proprio questo, cioè riuscire a fare un inquadramento di ciò che avveniva anche con le responsabilità collettive e singole. E qui invece si fa un grande film di guerra come se l'accertamento delle responsabilità non fosse mai avvenuto, e francamente questo plotone che uccide solo in preda ai rimorsi e che in qualche modo ha sempre ragione e che aspetta che arrivino i nostri, poteva andare bene forse una sessantina d'anni fa, ma qui risulta fortemente irritante, sembra più uno spot, un film di propaganda. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, la rosa purpurea, seconda parte. Parliamo subito di Saving Mr. Banks, lo facciamo però fra un attimo, voglio subito mettervi all'attenti, in allerta. Sapete tutto o pensate di sapere tutto di François Truffaut? Ebbene, cominciate a far andare la vostra memoria, perché fra poco giochiamo insieme, cominciamo un lungo gioco che ci porterà insieme al Sole 24 Ore, che sta pubblicando tutti o molti, diciamo, film di François Truffaut in un grande cofanetto. Insomma, dicevo, vi porterà a vincere uno di questi splendidi cofanetti, ben 11 film, 11 uscite fra i più bei film di François Truffaut, ma dovrete meritarveli. Quindi il gioco verterà proprio sulla vostra conoscenza di Truffaut. Se siete dei truffottiani de ferro, come si usa dire, insomma, cercate di dimostrarlo. Lo faremo verso la fine della trasmissione. Intanto, quindi, non perdete il segno, andiamo avanti con Saving Mr. Banks, una storia molto disneyana, veramente molto disneyana. La storia di come Walt Disney e la scrittrice P.L. Travers, che aveva scritto i libri di Mary Poppins, si incontrarono finalmente dopo 20 anni per concedere l'una all'altro i diritti di fare il film che poi è stato Mary Poppins, con tutto quello che ha rappresentato per più generazioni di bambini. E quindi quella storia ambientata in quella coloratissima Hollywood degli anni 60, per raccontare sì questo rapporto non facilissimo fra Disney e la Travers, lui pigmalione, ammaliatore, seduttivo, lei rigidissima, quasi imbalsamata, un po' emotivamente frigida, ma c'è un perché, e il perché è uno dei motivi del film, è una delle linee narrative del film, sono i ricordi dell'infanzia della Travers. E allora ci sono tre linee: i ricordi dell'infanzia della Travers, il presente, quegli anni 60, la creazione del mito di Mary Poppins, e anche una retrolettura per gli amanti di Mary Poppins, sentire comporre le canzoni che poi abbiamo ricordato, vedere all'opera i musicisti che fecero grande quel film, insomma è un'altra possibile lettura di questo Saving Mr. Banks. Sentiamo la clip. Ebbene, eccola arrivata, era ora. Oh, mia cara ragazza, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. È un onore, signor Disney. Oh, Walt, deve chiamarmi Walt. Il signor Disney era mio padre, dico bene, Don? Senza dubbio, Walt. Questo è il momento dell'incontro fra Disney e la signora Travers. Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti, che ritroviamo anche in questo film, La settimana di Paul Giamatti, Jason Schwartzman, tanto per citare i più importanti degli attori nel cast. Sentiamo cosa ne pensa l'orso Boris, che, come dire, no? Cioè, magari col cinema disneyano è abbastanza distante, però secondo me questo film, come dicevo, si presta a tante letture e ci racconta anche un punto di vista abbastanza inedito su un personaggio come Walt Disney, molto molto criticato dalla storia, nella storia, che però qui, come dire, ci restituisce quella che era sicuramente una sua grande caratteristica, il sapere essere seduttore fino in fondo. Boris si è sciolto, si è ammanzito, perché Saving Mr. Banks secondo me è un piccolo gioiello per vari motivi e varie letture. La più bella è che Disney vuole fare Mary Poppins perché l'ha promesso alle figlie, la scrittrice di Mary Poppins scrive Mary Poppins per salvare il padre, per salvare tutti i Mr. Banks del mondo, quindi in questa frase c'è tutto quello che è Mary Poppins, che è stato per tutti i bambini del mondo e che è stato però anche per i suoi creatori, perché Disney di fatto l'ha ricreato. Quindi già scoprire l'origine di un mito è qualcosa di meraviglioso. Trovare poi Tom Hanks ed Emma Thompson che incarnano questi due stereotipi, anche perché ormai lo sono diventati, miti storici, così bene, è fantastico. E tutto ciò che vuol dire quel racconto, ricordiamolo tra l'altro, un racconto che ha molte chiavi di lettura, il finale di Mary Poppins forse anticipa l'odio verso le banche che è arrivato solo negli ultimi anni, è un film davvero rivoluzionario, racconta sotto un'altra ottica tutto quello che la storia ci ha consegnato fino adesso, e forse rende giustizia a quel Disney che non era così cattivo come si pretendeva, o almeno chiunque venga interpretato da Tom Hanks difficilmente riesce a diventare cattivo. Questo è abbastanza vero, un Tom Hanks veramente in forma, devo dire, anche pingue se vogliamo, vista le dimensioni di un ingrassato Walt Disney di quegli anni, ma lui stesso lo dice in una battuta del film: una volta, 20 kg fa, ero tutta un'altra cosa. Saving Mr. Banks, a tutti quelli che hanno amato Mary Poppins, a tutti quelli che vogliono, a cui piacciono le storie, i backstage del cinema, come fu magari l'Hitchcock della scorsa stagione. Chissà se viene promosso anche, per me con riserva lo è per la pazzia totale dell'operazione The Lego Movie. The Lego Movie è, come, cosa posso dire, l'approdo su un grande schermo di un gioco di costruzione di mattoncini. Cioè, è chiaro che ci vuole un grado di follia per intraprendere una strada del genere notevolissimo. L'hanno dimostrato gli autori di Piovono Polpette, Phil Lord, Christopher Miller, che scrivono la sceneggiatura e la regia di questo film. Devo dire che l'operazione secondo me è riuscita perché è un film totalmente digitale, perché tecnologicamente, anche se sembra un passo uno, cioè con i movimenti fatti un fotogramma per volta, in realtà è totalmente digitale, ma per esaltare un'epoca totalmente analogica. E questo secondo me ne farà forse anche da noi la fortuna, come ne ha fatto Oltreoceano. Sentiamo questa clip. Buongiorno mondo! Cominciamo la giornata! Salti energizzanti! Uno! Due! Tre! Sono troppo pompato! Batman! Come va, bambola? Baby! Cosa? Oh, scusa, Batman, lui è Emmett. Emmett, il mio ragazzo. Batman! Bambola! Dammi la mano. Allora, ehi, ragazzi, ci sfracelleremo sul sole? Sì, sarà un vero schianto. Allora Boris, dicevo, la storia di Emmett, questo mattoncino operaio di un cantiere Lego in un mondo totalmente Lego, che è una persona talmente ordinaria da non avere secondo lui e secondo gli altri alcuna qualità, però si dimostra che la qualità in realtà ce l'hanno tutti, bisogna tirarla fuori. Un film sulla creatività, sull'importanza della creatività, sull'importanza di tornare bambini, un po' alla Peter Pan se vogliamo, ma anche un film su il buono che c'è dentro di ognuno di noi, senza essere melenso e con delle citazioni cinematografiche da Batman a Guerre Stellari che sono davvero esilaranti. Ecco, abbiamo parlato di Disney poco fa, io direi che questo film sarebbe piaciuto a Disney dopo averlo fatto inorridire, perché l'immaginario ovviamente è fuori da qualsiasi momento disneyano, però la morale è proprio quella. E io Lego Movie l'ho adorato, devo essere sincero, faccio parte di quella generazione, e qui avverto gli spettatori, che con i Lego ci ha giocato e che con i Lego ha giocato come viene raccontato nel film. Detto questo, secondo me narrativamente fa un'opera, e sembra una battuta, di costruzione e decostruzione delle tendenze di fiction più in voga, straordinaria. Esce ed entra da una presunta realtà, ha diversi livelli di lettura. Emmett è forse il più anti-radical chic di tutti, e i capomastri dei Lego sono forse una sorta di terrazza di scuola. Ovviamente stiamo correndo con la fantasia, ma il pregio secondo me di Lego Movie è proprio questo, che ti dà mille spunti di riflessione, allo stesso tempo ti diverte da matti, perché come in Piovono Polpette ci sono battute deliranti, a tratti demenziali, però poi è proprio una bella storia. Quindi sarà che io sono tornato bambino, sarà che hai fatto sciogliere l'orso Boris, ma i due film più infantili, tra virgolette, ma anche più adulti di questa settimana sono anche i miei due preferiti. Boris, grazie di tutto, della nostra carrellata solita in questa settimana ricchissima, in cui ricordo esce anche Pompei, disaster movie, vecchia maniera, insomma, ma la storia è quella e la conosciamo purtroppo molto bene, con altri film, altre pellicole. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Ebbene, bene. Allora, questa è la nostra scelta per quanto riguarda le proposte sul grande schermo. Giochiamo ancora insieme. Seconda traccia del nostro film poco misterioso di oggi. Hermès, mia moglie. Molto lieto. Lei è mia figlia Olga. Scusi, non è... No. E lei è... Aspita, la nonna! La Rosa Purpurea a @radio24.it, nome del film, vostro nome e indirizzo per ricevere una copia del Blu-ray di questo film per i due ascoltatori che come sempre per primi indovineranno di che film si tratta. Vi aspetto veramente molto numerosi. Andiamo a dare un'occhiata invece a quello che era stato il nostro, anzi un'ascoltata, a quello che era stato il nostro gioco di 7 giorni fa. Lo sa quanti poveri animali hanno dovuto uccidere per fare questa pelliccia? E tu lo sai quanti ricchi animali mi sono dovuta scopare per comprarla? Beh, insomma, molto eloquente. Si trattava di Nei panni di una bionda. Siamo andati indietro di una ventina d'anni con questa commedia sboccacciata ma molto divertente di Blake Edwards. I primi a indovinare sono stati Fabio Terenzi di Novate Milanese e Francesca Balestro di Chiampo, provincia di Vicenza. Saranno loro a ricevere a casa la copia in DVD di Nei panni di una bionda, della quale parliamo adesso con i nostri amici di Film TV, e con noi in collegamento Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Sì, ciao Franco. Parliamo di Nei panni di una bionda, seduttore impenitente convinto maschilista protagonista viene ucciso da tre delle sue amanti e nell'aldilà chi di dovere decide di dargli una seconda possibilità che però sa di contrappasso, di tornare sulla Terra con la stessa visione del mondo ma nei panni di una bionda appunto. Una commedia tardiva del maestro Blake Edwards, comico statinato e graffiante moralista in un DVD Cecchi Gori decisamente scarno, ma importante che ci sia. E questo allora per quel che concerne il nostro gioco della scorsa settimana, Nei panni di una bionda. Andiamo sempre a curiosare, come facciamo ogni settimana, nei palinsesti televisivi in chiaro e gratuiti della prossima settimana, per andare a pescare martedì 25 febbraio un William Friedkin dannata con Il salario della paura. Il salario della paura su Rai Movie martedì alle 23. Rinobilitato e magnificato da un restauro passato alla Mostra di Venezia, dove Friedkin è stato premiato col Leone alla carriera, e l'Apocalypse Now, la vera e fuori di Dio del regista di Esorcista e Braccio violento della legge. Costato 20 milioni di dollari, girato in Repubblica Dominicana, in un lungo travaglio tra malattie e feroci litigi, è stato divorato poi al botteghino dal successo di Guerre Stellari, ma è ancora oggi una parabola cruda e allucinata sulla natura umana, un capolavoro, diciamo, malato, assolutamente da recuperare. E allora ricordo l'appuntamento, Il salario della paura, martedì 25 febbraio su Rai Movie alle ore 23. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco e alla prossima. Torniamo sul gioco annunciato in apertura di questa seconda parte della Rosa Purpurea. Scopriamo chi è il più truffottiano degli ascoltatori del nostro programma. Da oggi, infatti, col Sole 24 Ore, tutti i sabati troverete in vendita un capolavoro di François Truffaut. Si parte con Jules Jim per finire il 3 maggio con Tirate sul pianista. 11 film per ripercorrere la grande storia del padre della Nouvelle Vague. E noi dalla Rosa ne approfittiamo per regalare al nostro ascoltatore più preparato in tema Truffaut il cofanetto con tutti e 11 i film. Lo faremo attraverso le nostre puntate con una domanda alla quale dovrete rispondere di volta in volta sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Da questo momento rispondete al post che trovate sulla pagina. La prima domanda è: su quale rivista scriveva Truffaut prima di diventare regista? Scriveteci con il vostro nome, noi stileremo immediatamente una classifica che comprenderà i primi 5 ascoltatori che indovineranno con un punteggio a scalare, e mano a mano, settimana per settimana, questo creerà una sorta di campionato dei truffottiani della Rosa. Il più preparato alla fine del percorso vincerà l'intero cofanetto. Torneremo con il nostro quiz la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Per oggi è davvero tutto. Un saluto da Franco D'Assisi.